Sport e motori con Massimo Di Scienza. Le 16:31 minuti e 40 secondi, amici di Radio 24, buon pomeriggio, buona domenica, ben trovati. Primo numero di Sport e Motori, perché sarà un'estate dedicata al brivido della velocità qui su Radio 24. Io vi farò compagnia per una mezz'oretta la domenica pomeriggio, a Gran Premio appena terminato, che sia del Motomondiale, MotoGP, Moto2 o Formula 1, Motomondiale come oggi, MotoGP e Moto2 appena finiti al Sachsenring, o Formula 1 come domenica prossima, con appendice serale poi di Laguna Seca per il Motomondiale. Insomma, se le due ruote, le quattro ruote scendono in pista, noi di Radio 24 ci siamo e soprattutto vi terremo aggiornati su quello che è accaduto, sui commenti dei protagonisti. Faremo commentare poi anche ai nostri ospiti tutto ciò che è successo sui più importanti circuiti del mondo, e poi soprattutto aspettiamo il vostro parere, perché questa è l'unica trasmissione in Italia dal punto di vista radiofonico che vi dà la possibilità proprio di commentare ciò che è accaduto sia nel Moto Mondiale che nella Formula 1. Allora, subito le nostre coordinate per intervenire in diretta. I numeri sono sempre gli stessi, io ve li ricordo così a beneficio della vostra memoria. 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS, 349-238-6666, altrimenti il numero verde è aperto per le vostre telefonate in diretta all'800-2400-24. Oh, come funziona Sport e Motori? Facile, parliamo di Motomondiale e di Formula 1. Ci sono due blocchi distinti di un quarto d'ora di durata ciascuno, quindi aspettiamo i vostri commenti partendo dal fatto di attualità più fresco. E oggi non può che essere il Motomondiale, perché più o meno un'ora e venti minuti fa sul circuito del Sachsenring è terminata l'ottava prova del Mondiale, del Motomondiale classe MotoGP, che ha avuto la fortuna, perché davvero è stata una fortuna, di vederla in TV. Ha avuto modo anche di apprezzare, di emozionarsi per una delle più belle gare che Valentino Rossi, oggi al ritorno dopo 40 giorni d'assenza, abbia mai completato nella sua lunga, ormai decennale e più carriera nel mondo del motomondiale. Valentino Rossi è infatti arrivato al quarto posto nella classifica del Gran Premio di Germania, dietro lo spagnolo Pedrosa, il connazionale Lorenzo, e dietro l'australiano della Ducati Stoner, con cui Valentino Rossi proprio nel finale ha battagliato per arrivare sul podio. Dietro Rossi al quinto posto Dovizioso. Fin qui i numeri della cronaca. A proposito di numeri, diamo un'occhiata anche a quella che è la classifica iridata della classe MotoGP. Infatti mantiene il comando della classifica lo spagnolo della Yamaha Jorge Lorenzo con 185 punti, davanti a Dani Pedrosa 138, Dovizioso 102, poi Stoner 83, Hayden 78 e Valentino Rossi 74. Ma ovviamente Valentino è rimasto fuori 4 gare e dunque il suo mondiale, almeno dal punto di vista della classifica, fino a questo momento è decisamente penalizzato. Lui ha detto comunque mai dire mai, faremo i conti alla fine. Ma restiamo sulla attualità, restiamo sul racconto di quello che è accaduto al Sachsenring, e chi meglio dello stesso Valentino Rossi può raccontarci tutta la sua soddisfazione per il quarto posto ottenuto in Germania. Non sono mai stato così felice per un quarto posto, ecco. Sono contento di come è andata, di essere riuscito a guidare, e soprattutto grande battaglia alla fine, mi sono proprio divertito. Purtroppo mi manca un po' di feeling ancora con le gomme nuove, infatti nelle due partenze ho sempre perso troppo tempo e mi sono sempre ingarellato con altri, soprattutto nella seconda gara ho perso tempo con Dovizioso, purtroppo, sennò anche Lorenzo non era troppo lontano, ecco. Poi evidentemente sono una grande motivazione per tutti, ecco, perché Stoner, quando mi ha visto, si è messo a girare fortissimo, quindi dalla prossima gara mi vestirò da un altro pilota. Non sarebbe male un Rossi camuffato per evitare di incorrere nella grinta, così in alcuni casi anche abbastanza in attesa di Stoner. A proposito delle sue condizioni fisiche, perché ovviamente oggi era fondamentale capire come rispondeva la gamba di Valentino Rossi, ricordiamo, operata soltanto 39 giorni fa a Firenze, anche da questo punto di vista Rossi è molto molto contento. Tanto devo, per essere qui, in questo weekend, devo ringraziare tanta gente, devo ringraziare il dottor Buzzi che mi ha operato a Firenze, devo ringraziare il dottor Lucidi, il dottor Porcellini e anche il dottor Costa perché mi sono stati vicini, Carlo che è il mio preparatore che è tutti i giorni venuto a casa mia per allenarsi 2-3 ore al giorno con me, quindi abbiamo fatto un grandissimo lavoro e sono riuscito, oggi ero in forma, naturalmente mi faceva un po' male la gamba, un po' male la spalla, però riuscivo a guidare bene. Mi manca un po' di feeling, le quattro gare che non ho fatto si sentono, soprattutto i primi giri, soprattutto con le gomme nuove, ecco, però è stato un buon step di riavvicinamento e domenica prossima a Laguna cercheremo di salire sul podio. E domenica prossima altro grande appuntamento in serata, nella serata italiana, con inizio alle 22:50 il Gran Premio di Laguna Seca, sempre per la MotoGP. E a quel punto chissà che Valentino Rossi non possa pensare, immaginare al podio o addirittura a qualcosa di più. Non sarò solo in questo appuntamento domenicale, perché mi sono scelto il meglio per commentare la Formula 1 e il Moto Mondiale. Mi sono scelto due tra i migliori giornalisti, i migliori colleghi che esistano nel panorama nazionale. Guarda caso si chiamano entrambi Carlo. Del secondo parleremo tra poco, del primo invece parliamo subito, lo presentiamo ai nostri ascoltatori, diamo il benvenuto anche qui su Radio 24. Carlo Vanzini, direttamente da Sky Sport. Buona domenica, buon pomeriggio Carlo. Ciao, buona domenica e in bocca al lupo. In bocca al lupo anche a te, perché insomma siamo corresponsabili di questa impresa, saremo insieme. Allora, ancora per una decina di minuti, Carlo, partiamo subito. Non potevamo partire meglio, Carlo, per questo appuntamento di Sport e Motori, perché ci troviamo a commentare forse una delle più belle gare, dicevo all'inizio, che Valentino Rossi ha affrontato negli ultimi anni. L'abbiamo visto vincere, l'abbiamo visto perdere, l'abbiamo visto trionfare e ruzzolare per terra, però con un chiodo nella gamba di quasi 30 centimetri non l'avevamo mai visto correre. Ma guarda, non potevamo iniziare meglio, hai detto tu, per me ancora meglio perché mi trovo a Brisighella in occasione del trofeo Bandini che è stato assegnato a Lewis Hamilton. Ho avuto anche l'occasione di seguire la parte finale della gara insieme a Lewis Hamilton e quindi per me è stato un gran premio ancora più bello perché l'ho seguito con uno che ha vinto un mondiale di Formula 1 e Lewis Hamilton ha detto: è un fenomeno, lo voglio conoscere, lo voglio incontrare. Queste le se parole di Lewis Hamilton, è sicuramente un fenomeno. Guarda, le immagini che hanno riproposto anche poco prima della gara della gamba di Valentino Rossi erano eloquenti, sono eloquenti quelle immagini, ha fatto qualcosa di straordinario. È vero, nella storia ci sono stati piloti che praticamente venivano messi dalla carrozzina sulla moto, quindi per un pilota della moto forse è più facile rientrare, anzi è sicuramente più facile rispetto a un qualsiasi altro sportivo rientrare da un infortunio di questo tipo, però rientrare e andare così forte non è da tutti. Credo che Valentino Rossi abbia pensato alla sua gamba solo all'ultima curva, quando insomma, se lì avesse tenuto aperto il gas probabilmente ci sarebbe stato un contatto con Stoner e allora lì secondo me si è ricordato che la sua gamba era ancora un po' penzolante. Carlo, poi ovviamente torneremo su Valentino Rossi. Analizziamo anche la gara di testa. È stata una gara piuttosto particolare, lo dicevo prima, divisa in due. In mezzo c'è stato l'incidente a Deponier, la bandiera rossa, la ripartenza, la vittoria di Pedrosa, il secondo posto di Lorenzo. Anche in questo caso, secondo te, il secondo, nel primo caso era Valentino, nel secondo Lorenzo, si è un po' accontentato di gestire la situazione? Cioè Lorenzo un pochino alla fine ha tirato i remi in barca perché il vantaggio nella classifica iridata comunque gli dà grandi garanzie. Garanzie e sicurezza. Il vantaggio in classifica gli dà garanzie, ma soprattutto gli ha dato garanzia il fatto che Valentino era dietro. Per lui era importante oggi non arrivare dietro a Valentino, non fare diciamo la figura di essere battuto da uno che correva oggi con una gamba e mezzo. E quindi nel momento in cui ha visto che Pedrosa comunque ne aveva di più su una pista dove, non dimentichiamo, ha già vinto 3 volte, 2 volte in 250, una volta in MotoGP, stava vincendo un'altra volta sul bagnato prima di scivolare, quindi il Sachsenring è sicuramente la seconda casa di Pedrosa. Lì ha capito che perdere 5 punti nel mondiale va bene, è una situazione che assolutamente può gestire, ha lasciato andare via Pedrosa nel momento in cui tutti, l'abbiamo visto dall'onboard del posteriore, tutti erano in difficoltà con le gomme. Quindi secondo me Lorenzo soprattutto oggi ha dato un segno di maturità, ma un segno di maturità dovuto al fatto che si è scrollato di dosso, ha avuto il vantaggio che Valentino all'inizio si è trovato un po' di traffico con Barberà, con Dovizioso, quindi non lo ha avuto addosso. Se avesse avuto addosso Valentino, secondo me anche Lorenzo faceva un'altra gara oggi, ma il suo obiettivo oggi era non arrivare dietro a Valentino Rossi e l'ha raggiunto. Per di più in classifica ha un vantaggio talmente importante che il mondiale ce l'ha in mano lui. Peraltro della stessa opinione è lo stesso Pedrosa, che ascoltiamo, intervistato proprio poco dopo la gara. Per il mondiale sicuro è molto difficile, perché Lorenzo ha tanti punti di vantaggio, anche se quando lui non vince fa secondo, allora solo tirar via 5 punti è poco, però io provo a fare tutte le gare lo meglio che posso e niente, speriamo di andare così fino alla fine. Carlo, peraltro il rientro di Valentino Rossi, al di là di dare grande sale allo spettacolo, è una manna anche per gli organizzatori del motomondiale, che si trovavano tra le mani un campionato sostanzialmente chiuso, no? Dopo le tre vittorie consecutive di Lorenzo. Rossi, insomma, fa bene non soltanto a se stesso, non soltanto ai suoi tifosi, un po', ma a tutto l'ambiente, perché ricrea grande interesse e passione nei confronti di questo campionato. Fa bene a tutti, fa bene alle televisioni, visto che c'era stato un calo netto degli ascolti, e non parlo di poche unità, parlo di 2-3 milioni di spettatori che senza Valentino hanno preferito bagnarsi in acqua piuttosto che stare davanti alla televisione. Fa bene a noi, perché ne stiamo parlando, se ne è parlato e se ne parlerà tanto. Domani immagino il titolo sarà tutto per lui, i titoli dei giornali saranno tutti per lui. È chiaro che quando hai un personaggio di questo spessore speri sempre che sia in corso. Io sai benissimo che l'altra mia grande passione è lo sci, ogni volta, anche se ha l'età che ha, tutti sperano che Tomba torni a gareggiare. Quando sei davanti a certi miti speri sempre di vederli in azione. Per di più io credo che oggi sia diventato davvero un eroe Valentino Rossi, agli occhi della gente, agli occhi di tutti, agli occhi nostri, perché poteva tranquillamente starsene ancora a casa, poteva tranquillamente ancora aspettare prima di rientrare, di rischiare. Però va anche detto un'altra cosa: Valentino Rossi si è tolto un paio di soddisfazioni, nella sfortuna dell'infortunio un paio di soddisfazioni se le è tolte. La prima è guidare la Superbike e dimostrare di poter essere più veloce di Max Biaggi, perché l'ha fatto andando a girare l'ultimo test, e quindi ha mandato un segnale, come dire, vedi, venissi a correre qua sarei più forte proprio anche nel qua. Momento in cui Biaggi ha cominciato a vincere in Superbike. Bravo. E poi si è tolta la seconda grande soddisfazione, dimostrare che anche con la gamba e mezza, insomma, può lottare con i migliori. Certo, quel podio sarebbe stata la ciliegina, ma va benissimo un quarto posto. Un podio che potrebbe essere semplicemente rinviato a domenica, lo dicevamo, no? Laguna Seca è proprio dietro l'angolo e anche lì sarà spettacolo. Carlo, per concludere, ovviamente il discorso ci porta al futuro di Valentino Rossi. Lui, in un'altra parte della conferenza stampa, ha lanciato una stoccata alla Yamaha. Ha detto, beh, forse mi scaricano perché sono vecchio, preferiscono più giovani, preferiscono Jorge e Lorenzo. Sa di fatto che comunque il passaggio alla Ducati, che è attesissimo dai suoi tifosi, sembra davvero alle porte. È una scelta che condividi, che ti convince, oppure Valentino faticherà poi a Borgo Panigale? Ma io credo che è la natura delle cose. Valentino Rossi doveva arrivare alla Ducati, deve arrivare alla Ducati. Ormai è una non notizia, si aspetta solo l'annuncio ufficiale, ma ormai lo sanno tutti che Valentino Rossi correrà la prossima stagione con la Ducati. È diciamo forse la fine naturale della carriera per portare a successo una scuderia italiana. Lui è riuscito nell'intento di riportare la Yamaha ai livelli dei tempi di Reni, e quindi ha fatto già qualcosa di storico. Quando è andato in Yamaha tutti dicevano è un pazzo. Per questo forse lui adesso ha un po' di astio, perché ha riportato grande, ha rifatto grande la Yamaha, e effettivamente forse dagli atteggiamenti si è sentito un po' scaricato, ma forse più che scaricato, non tutelato nello scontro diretto con Lorenzo. La Yamaha ha messo i due piloti allo stesso livello, Lorenzo sta dimostrando di essere anche lui uno straordinario protagonista delle moto, e lui forse si è sentito un po' meno tutelato. Se vogliamo, è quello che è successo Fernando Alonso e Lewis Hamilton insieme in McLaren, insomma due galli nello stesso pollaio, soprattutto quando uno magari è più affermato e l'altro si sta affermando, scalpita. Non ci possono stare. Quindi ben venga questa avventura, io sono sicuro che riuscirà a portare in alto la Ducati, e la Ducati è già in alto, comunque lo dimostra il podio di Stoner di oggi, riuscirà a fare un grandissimo risultato, sarà la firma sulla sua carriera incredibile. Grazie a Carlo Vanzini, ci risentiamo tra 7 giorni per commentare insieme il Gran Premio di Hockenheim di Formula 1 che si svolge domenica e poi anticipare i temi di Laguna Seca per la MotoGP. Ciao Carlo, buona domenica. Sì, ti lascio solo una battuta di Hamilton. Ah, è vero, ce la dovevi. Siamo a Brisighella, quindi Emilia-Romagna, se vogliamo la terra della Ferrari, anzi la terra della Ferrari, gli è stato chiesto, verrai mai in Ferrari? Lui ha risposto, sto bene dove sono. Ecco, appunto, negare sempre comunque, Carlo, si dice in questi negare casi. Sempre, grazie mille. Sport e motori. Le 16:48 minuti in questo istante, ancora un buon pomeriggio, seconda parte di Sport e Motori, buon pomeriggio ancora da Massimo Di Scienza, saremo insieme fino alle 17, voltiamo pagina perché dopo il capitolo dedicato al motomondiale parliamo di Formula 1 in questa seconda parte dell'appuntamento di oggi ed è un piacere salutare, dare il benvenuto qui su Radio 24, poi le sentiremo ancora nelle prossime domeniche, salutiamo il neo direttore di Quattro Ruote, Carlo Cavicchi, che è con noi in diretta. Salve direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e buonasera a tutti. Complimenti anche per l'importante traguardo professionale. Forse è la prima volta che ci sentiamo da direttore di Quattro Ruote qui su Radio 24. Comunque diciamo che nella famiglia c'ero perché ero già con direttore, quindi mi sento tutto sommato che non è cambiato molto, ecco. In bocca al lupo, ti seguiremo ovviamente con grande affetto e passione. Tanto per non lasciare l'argomento motomondiale così, perché ha appassionato anche i nostri ascoltatori che ci hanno chiamato all'800 24 00 24 o che ci stanno scrivendo al 349-238-6666. Direttore, ci vorrebbe un Valentino Rossi anche nel mondo della Formula 1. Forse Alonso è quello che si avvicina di più e che lo ricorda di più in alcuni moti d'affetto che sa, scatenare nel suo pubblico. Però un Valentino Rossi nella Formula 1 non c'è, no? Sì, oggi non c'è, chiaramente, ma i Valentino Rossi sono così rari che è difficile che ci siano di qua e di là, proprio per quello che ha fatto vedere oggi, ma soprattutto oggi la MotoGP ha ridato delle emozioni con quei 9 tra sorpassi e controsorpassi negli ultimi 10 giri che non si vedevano da una vita, diciamolo pure, l'ultimo motomondiale recentemente era stato veramente noioso, che è una cosa incredibile per le moto che invece sono sempre state il simbolo delle gare eccitanti, ma oggi devo dire che ha ripagato largamente le più grandi attese. Non c'è dubbio, grazie anche a Valentino, e lo dicevamo anche prima con Carlo Vanzini, quanto il suo ritorno sia importante per tutto il movimento. Invece, ma vorrei dire, vorrei dire grazie a Valentino e grazie anche a Casey Stoner che ha rispettato molto Valentino, cioè non l'ha trattato da uno che rientra e dicendo poveretto fa la sua gara, che bravo che è stato, no, l'ha trattato come se fosse la cosa più normale del mondo, come se fosse sempre il campione che è sempre stato, ed è bello quando i piloti si battono fino in fondo con il rispetto e con la rabbia di considerarsi sempre la stessa cosa. Per Valentino la conquista più grossa è questa, l'hanno considerato buono come era prima e questo è fantastico. Direttore, abbiamo parlato dei sorpassi che ci sono stati in gara oggi, che hanno un po' invertito una tendenza nella stagione così a regalare gare forse un filino meno emozionanti rispetto al passato. C'è da dire, e qui veniamo alla Formula 1, alla stagione in corsa invece, che il tanto vituperato campionato a quattro ruote, il più importante del mondo, invece ha regalato delle gare interessanti, no? Anche dal punto di vista proprio dei duelli personali, eccetera. Cosa secondo te si deve questa leggera inversione di tendenza in meglio, fortunatamente? Ma intanto la Formula 1, se non dovesse scontrarsi con circuiti estremamente difficili per dare emozioni, perché sono stati un po' votati alla sicurezza estrema e quindi sono veramente ostici da affrontare sulla base dei sorpassi. Non dimentichiamoci che le stesse piste che per le moto sono larghe, per la Formula 1 diventano strette, perché le macchine sono molto più larghe delle moto, quindi in uno spazio di 12, 13, 14 metri, che sono le carreggiate medie dei circuiti, macchine larghissime fanno anche fatica a trovare lo spazio, poi quando vanno fuori sappiamo tutte le storie che sono legate ai problemi dei sorpassi. Però quest'anno, col fatto che non si possono fare tante tattiche e bisogna comunque non si può sperare nei pit stop, nei cambi, nelle strategie, bisogna guadagnarsela sul posto, molti piloti ci hanno messo abbastanza anima, quando si può, quando le piste sono vere tipo il Canada o roba del genere, abbiamo visto delle grandi gare. Il mondiale a questo punto, siamo quasi, se non sbaglio, a metà della stagione e alla vigilia di un gran premio importante come quello di Hockenheim. Cosa ha detto? Direttore? Ha detto quello che diciamo cosa ha detto e cosa non ha detto. Ha detto sicuramente quello che lì più esperti avevano previsto in questa stagione, cioè che sarebbe stato un rischio di monopolio McLaren per quello che è il campionato costruttori, perché la McLaren ha sicuramente la squadra più forte, oltre ad avere gli ultimi due campioni del mondo in carica, ha probabilmente la coppia più forte, perché ha il pilota più talentuoso in assoluto sulla base dei sorpassi, del coraggio e dell'inventiva che è probabilmente Hamilton, e ha il pilota sicuramente più capace di andare al risultato sodo che è Button. Button, quando ha un obiettivo da raggiungere, non lo lascia mai. L'aveva fatto in gioventù, ha avuto degli anni un po' bui con macchine che non andavano. L'anno scorso ha dimostrato che la prima grande occasione di vincere un titolo l'aveva, non ha sbagliato nulla. Quest'anno ha preso la sfida più difficile ed è lì in lotta per il mondiale, ma molto più vicino di quello che si pensa al mondiale, perché Button non sbaglia mai. Hamilton qualche errore lo fa. Comunque, la coppia è la coppia migliore. Non ha detto quello che tutti si aspettavano, cioè che il pilota favorito per vincere era Alonso, e invece Alonso, per tutta una serie di concause che ci porta anche molto lontano, perché il discorso è molto lungo, ma non sta azzeccando la miglior stagione della sua vita. E quindi resta la macchina più veloce del lotto, che è la Red Bull, è la macchina migliore, ha una coppia molto forte, ma è una tra la coppia in assoluto non vale la coppia della McLaren, e la macchina in assoluto è molto più veloce, ma non ha la solidità tecnica, mentale, strategica della McLaren. Questo vuol dire che è in Formula 1 in questo momento conta più il fattore umano, il fattore pilota, rispetto all'elemento macchina, motore? Beh, il pilota conta molto, è sempre contato molto in Formula 1. Non dobbiamo però mai dimenticare che oggi abbiamo mediamente 15 macchine in un secondo, che è una cosa incredibile, sono tutte lì, quindi diventa tutto molto difficile da fare, e quando è tutto così difficile, il pilota, non tanto sul singolo giro, ma sul complesso del campionato, ha un peso molto alto. La Ferrari in generale, abbiamo velocemente toccato il discorso Alonso, la Ferrari in generale quanto ti ha deluso? Mi ha deluso molto momento? Perché la macchina non va male come sembra, non va male come la posizione che occupa, però l'insieme macchina, piloti, strategie, muretto, organizzazione, qualche lacuna evidentemente ce l'ha, perché se è così indietro, anche trovando sempre una giustificazione, come la Ferrari fa per sistema, la spiegazione sempre perché le cose non sono andate come dovevano andare, resta che il bilancio non è buono, e quando un bilancio alla lunga non è buono, evidentemente qualche problema c'è, perché se tutte le volte c'è una colpa della federazione, una colpa del pilota, una colpa della sfortuna, una colpa della safety car, però alla fine questo c'è poi per tutti, e per la Ferrari c'è troppo di più quest'anno. La Ferrari evidentemente c'è qualcosa che non è a posto e non la tiene dov'è. Il pilota, evidentemente un pilota grande come Alonso, con l'esperienza, il mestiere, le capacità, non sta rendendo come tutti si aspettavano, perché colleziona errori, poi lui si carica tutto il peso sulle spalle con grande merito, però resta il fatto che tutti ci aspettavamo qualcosa di più. E cosa sta succedendo a Massa, che quest'anno non ha mai inciso? Non lo so, Massa rientra da un grande incidente, da un grave incidente, e ha dato il meglio secondo me nelle fasi iniziali, però probabilmente un livello così alto in Formula 1 non si vedeva da una vita, 4 campioni del mondo, 9 piloti che avevano vinto almeno un gran premio, insomma un livello veramente alto nella Formula 1 di quest'anno. Questo fa sì che non è che è facile per tutti emergere. In più, secondo me, l'errore clamoroso che la Ferrari ha commesso nel rinnovare così in anticipo il contratto con Massa, io non dico che non dovevano rinnovare il contratto con Massa, si poteva fare ma in qualsiasi momento, la Ferrari non può aver fretta, non c'è una ragione di avere così fretta. Dove andava Massa? Dove avrebbe trovato un posto migliore della Ferrari? Mai. Quindi Massa non sarebbe mai scappato via, lo si poteva rinnovare a Monza, tenendolo però un po' più sulle spine e chiedendogli di dare il massimo. Probabilmente gli hanno chiesto di non disturbare troppo il caposquadra e l'hanno, con questo contratto l'hanno un po' ammosciato, non lo so, ammorbidito. Resta il fatto che non va benissimo. Senti, ci sono, guardavo in classifica iridata, ci sono qualcosa come 54 punti di differenza tra Schumacher e Nico Rosberg, ma a vantaggio del più giovane tra i due tedeschi, cioè Nico Rosberg ha 90 punti, il compagno di squadra è Mercedes Michael Schumacher 36. Come mai? Come ti spieghi questo divario così enorme e sicuramente inatteso rispetto a quello che ci dicevamo? Chiaramente inatteso, Schumacher non è andato come doveva andare, alcune cose sono anche andate storte, e poi io credo che Schumacher abbia preso in assoluto la peggior stagione per rientrare, peggiore perché c'erano due combinazioni per lui estremamente negative: il fatto di non poter provare, e quindi per uno che rientra l'allenamento è fondamentale anche nel fare lo sviluppo per farsi la macchina cucita addosso come ha sempre fatto lui. In più si corre con gomme molto strette all'avanti, che è la condizione peggiore per un pilota che invece ha sempre voluto una grande aderenza all'anteriore. Schumacher ha sempre guidato con la macchina piantata e che sbandava dietro, questo con queste gomme che sono quest'anno è assolutamente impossibile. Le due cose unite certamente non hanno aiutato un pilota che è stato fermo 3 anni, che si ritrova nella stagione col livello più alto di piloti contro di lui. Però voglio anche aggiungere che è vero che sono 54 punti o comunque più di 50 punti, ma è anche vero che i nuovi punteggi sono molto diversi che in passato. Dobbiamo ragionare che con questo passo qui un pilota che avesse vinto tutti i Gran Premi avrebbe preso più punti che in tutta la carriera Nigel Mansell o Niki Lauda. Sono completamente cambiati i punteggi e ci portano anche un po' fuori luogo nel fare i calcoli. Non c'è dubbio, però la differenza in classifica rimane e questo l'abbiamo valutata. Chissà che l'area di Hockenheim non faccia bene a Schumacher, che magari settimana prossima può mettere insieme una prestazione dei suoi livelli. Ci voleva forse miglior Schumacher per competere in questo mondiale e finora non l'abbiamo visto. Noi ringraziamo Carlo Cavicchi, direttore di Quattro Ruote. Direttore, ci risentiamo domenica prossima per commentare insieme il Gran Premio che sarà a questo punto appena concluso. Allora, grazie ancora, buon lavoro e buona domenica, presto. Ciao. Grazie. Arrivederci. Grazie mille. Io ringrazio anche Filippo Aureggi in regia, Margherita Aina in redazione. Ringrazio voi per averci fatto compagnia. Noi ci ritroviamo domenica prossima alle 16:30 in diretta su Radio 24 per un nuovo appuntamento con Sport e Motori. Sport e Motori.